I matti delle giuncaie, vado a stare in campagna, ci vuole proprio una canzone così per sorridere un po'. Vado a vivere in campagna, scusate, non vado a stare in campagna, insieme alla voce inconfondibile di Bobo Rondelli. Banzo, anche tu te ne vuoi andare a vivere in campagna o stai così a tuo agio nell'afa barcellonese rinchiuso in casa? Allora, Steven, bentornato, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti. Allora, a mio agio no, perché ti parlo mentre le mie molecole fanno uno sforzo considerevole per mantenere lo stato solido, però io in campagna ci sono praticamente nato e non mi ha mai attratto particolarmente. E comunque volevo sottolineare, mentre ti ascoltavo, appollaiato, pronto a entrare anche nella primissima introduzione, hai già inanellato una serie di discorsi sul caldo che, signora mia, sono tutti veri, sono tutti giusti, e fa un gran caldo e porca miseria. Però, ecco, io sono qui per rompere le palle, quindi volevo ringraziare tutti gli attivisti climatici che si prendono le mazzate ben volentieri alle manifestazioni, stanno combattendo per noi tutti una battaglia che purtroppo sembra destinata alla sconfitta, e noi siamo qui a lamentarci del fatto che fa troppo caldo a giugno. Hai ragione. Però a ottobre fa 20 gradi, che bello. Hai ragione, hai ragione, Banzo. Però prima voglio dire una cosa, prima poi di immergerci nella nostra puntata di questo 17 giugno di Zibaldone, riguarda la canzone che ci siamo appena sentiti, dei Matti delle Giuncaie con Bobo Rondelli. Perché questa canzone, di cui c'è anche un bel video che potete trovare online, che è uscita da poco, i Matti delle Giuncaie, insieme a una band calabrese, i Radio Lausberg, hanno unito le forze per avviare una raccolta fondi per l'associazione Tumori Toscana, nel nome di Enrico Enriquez Greppi, ossia il leader della banda Bordeaux, che purtroppo è scomparso l'anno scorso. Perché i Matti delle Giuncaie hanno iniziato questo crowdfunding per sostenere l'associazione Tumori Toscana? Perché Enriquez aveva collaborato con loro negli ultimi anni, aveva cantato anche con loro, aveva prodotto alcune loro canzoni e stava lavorando al loro disco, e lo stesso vale per i Radio Lauser. Quindi mi sembra un progetto molto bello. La raccolta fondi si trova sulla piattaforma Produzioni dal Basso, e queste due band, sia i Matti delle Giuncaie sia Radio Lausberg, mettono a disposizione in anteprima 500 copie fisiche a tiratura limitata e da collezione dei loro nuovi dischi. Quindi andate a dare uno sguardo a Produzioni dal Basso, perché insomma innanzitutto vi prendete un bel disco, ecco, di artisti che vale la pena sostenere, dall'altra state appoggiando una causa molto importante, giusto o no, Banzo? Giustissimo. Però forse io proseguo nel voler dare dettagli puntigliosi, Steven. I nostri ascoltatori si chiederanno a chi danno i soldi. Ecco perché questi qua si chiamano i Matti delle Giuncaie. Il nome sembra essere tratto da un racconto omonimo di Renato Fucini del 1882, quindi era il singolare, il matto delle Giuncaie in quel caso. Ecco, infatti Enriquez aveva prodotto una canzone proprio dei Matti delle Giuncaie che si chiamava Il Matto. Ecco, e quindi vedete, c'è una perfetta tutto quadratura torna del cerchio, o cerchiatura del quadrato. Ecco. E su questo primo slot, e poi ti lascio proseguire perché bisogna a un certo punto lasciare andare, è aleggiata con veemenza e violenza l'ombra di una canzone dal titolo e tematica consimili, cioè la mitica Voglio andare a vivere in campagna di Toto Cutugno del 1995. Era necessario ricordarla? Puoi andare avanti, Steven. Andiamo avanti con la prossima canzone, Vasco Brondi, nuovo singolo, Va dove ti esplode il cuore, e anche nuovo videoclip. Ho conosciuto una ragazza che si chiama, non mi ricordo. Aveva un nome corto, gli occhi azzurri, parlava degli Stranglers e di Krishnamurti. Ci siamo incontrati dove la strada ricomincia, ci siamo capiti, sarà che siamo cresciuti nella stessa provincia, meccanica, sporca, santa e sonica, negli anni 90, quando anche l'aria era distorta. E c'era sempre da qualche parte una chitarra elettrica che ci benediceva. Diceva non importa, non importa, ti fiamo ribalta. C'era sempre un amplificatore, qualcuno che gridava in una sala prove. Va dove ti esplode il cuore. Va dove ti esplode. strana, sembrava straniera, ma era solo che veniva da quella provincia che ti uccide o ti eleva, che ti uccide o ti eleva. Aveva imparato l'inglese ascoltando la scena new wave newyorkese, mentre come bombe le stelle del paese stavano per cadere, ma restavano sospese. Lì a Modena anche le persone normali per te impazzivano, e i ragazzi tutti insieme ti scrivevano rumorosissime preghiere per quando stavi male, per farti stare bene. C'era sempre un distorsore, qualcuno che gridava in una sala prove, va dove ti esplode il cuore, va dove ti esplode il cuore. Un giorno ci toccherà morire, ma tutti gli altri giorni no, ma tutti gli altri giorni. Provincia sporca, santa e sonica, i nostri sogni come per una reazione chimica, entrando in contatto con l'aria ci bruciavano, illuminavano, illuminavano, illuminavano, illuminavano, illuminavano, e tutti gridavano, va dove ti esplode il cuore, va dove ti esplode il cuore, un giorno ci toccherà morire. Va dove ti esplode il cuore, la nuova canzone di Vasco Brondi, che arriva ad un anno dalla pubblicazione del suo primo album di inediti dopo la fine del progetto delle luci della centrale elettrica, Paesaggio dopo la battaglia, un disco che, di cui avevamo parlato qui a Zibaldone. Vasco Brondi rappresenta così questa canzone: va dove ti esplode il cuore, è una specie di viaggio nella provincia sonica ed elettrica degli anni 90, quella in cui sono cresciuto e dove nell'aria si sentiva sempre qualche chitarra elettrica, qualche amplificatore tirato all'inverosimile che fischiava, qualcuno che gridava strane parole d'amore. Beh, insomma, si trova tutto questo anche nel brano che ci siamo appena sentiti, si coglie, Banzo, eh? Si coglie benissimo, soprattutto se si ha l'età giusta, ecco, direi. Mi è piaciuto l'incipit, ho conosciuto una ragazza che si chiama, non mi ricordo, e comunque volevo dire che a livello musicale, è un po' un bisticcio quello che sto per dire, però ecco, è un brano a mezza via fra il Vasco Brondi attuale e lo stile più antico delle luci della centrale elettrica, nel senso che non è altrettanto concitato come i vecchi progetti, però c'è un po' una ripresa di quel ritmo. E d'altronde non mi sembra casuale, visto che appunto il brano parla di reducismo, sostanzialmente di nostalgia, che non so se Vasco Brondi è autorizzato ad avere, perché non ha ancora compiuto 40 anni. Eh sì, hai ragione. Comunque, insomma, avete visto che in questa puntata di Zibaldone, insomma, vi proponiamo parecchie news che ci arrivano dall'Italia. Avremo anche due ospiti tra poco che ci presentano i loro nuovi dischi. Parliamo di Dario Sansone, il leader dei Foia, che ci presenterà il nuovo disco della band napoletana che si intitola Miracoli e Rivoluzioni. E poi nella seconda parte torna a trovarci, l'abbiamo avuto in radio poco prima della pandemia, Andrea Tarquini, che ci parla del suo nuovo disco che esce proprio quest'oggi, In fondo al Novecento, e poi tante altre cose, tra cui un progetto molto bello che ha a che fare con la musica e il carcere. E, insomma, rimanete con noi e nel frattempo ascoltatevi un'altra news che ci arriva dall'Italia, no, e questa in realtà ci arriva dal Belgio, perché Giacomo Lariccia, cantautore che seguiamo da tempo, vive in Belgio. Tremenda voglia di vivere è il titolo della sua nuova canzone. Vivere, tremenda voglia di crescere, se tremenda questa vita, tremendamente la voglio, fino a che finisce, tremenda voglia. possibilità, chiede al mondo di crescere. Voglio correre per strada, più forte del vento, più in alto del cielo. Voglio urlare questa sera, tenerti per mano, guardare lontano. Accarezzare il vento che ti scompiglia i capelli, tremenda voglia di ridere, tremenda voglia di piangere, di riuscire a mostrare al mondo che sono ancora in piedi e che non smetto di correre. Voglio correre per strada, più forte del vento, del cielo. Voglio urlare questa sera, tenerti per mano, guardare lontano. Tremenda voglia di vivere, vivere, possibilità che dal mondo di crescere. Voglio correre per strada, più forte del vento, più in alto del cielo. Voglio urlare questa sera, tenerti per mano, guardare lontano. Tremenda Banzo, Giacomo Lariccia, tremenda voglia di vivere. Banzo, volevo dire una battuta telegrafica al volo che abbiamo già in collegamento telefonico con noi Dario Sansone, che ci parlerà del nuovo disco di Foia. In realtà questo brano è uscito a maggio, però se ci pensi, quanti brani sulla voglia di vivere escono in inverno? Ecco. No, quelli molto poi, pochi. Poi arriva l'estate e entriamo in liquefazione, vabbè, è un po' contrastante, ma è un dato di fatto. Che però ascolta... È più facile che un brano che esca a maggio sia stato composto in inverno e registrato, non credi? Ma in realtà questo non lo sappiamo, eh. Potrebbe essere stato composto in qualunque momento dell'anno, perché le vie della produzione musicale sono infinite, ma mi stavi quasi per mettermi in scacco. Vabbè, andiamo subito ad ascoltarci Foia e poi ne parliamo con Dario Sansone. A furia di c'era che cosa niente a diventare niente, ma poi non fosse meglio cercare essere meglio che l'essimo. La gente pensa sempre che stai fuori, ma noi cerchiamo una ragione a tutto sto rurore che ci fa star pure. Eppure vuoto sai, mi metto troppo scorna, e assomiglia una razza che come non a furia di tu non dai una mano a chi viene lontano, sta guerra è pura noia, la terra è Non è ancora fernuta, questo è il primo disco che vi proponiamo dei Foia, tratto dal loro nuovo album uscito lo scorso mese di aprile, Miracoli e Rivoluzioni. E abbiamo in collegamento telefonico con noi il leader dei Foia, la voce di questa ormai storica, mi permetto di dire, band napoletana, perché è una quindicina d'anni, occhio e croce, che è insomma sui palcoscenici e che fa tantissime cose molto belle, e è Dario Sansone. Dario, bentornato a Zibaldone. Ciao a tutti, ciao e buon pomeriggio. Un piacere davvero averti con noi per parlare di questo disco e tra l'altro anche per parlare del tuo prossimo concerto a Barcellona. Tra meno di due settimane, il 30 giugno, sarai qua, un concerto al Tinta Roja, una bellissima sala del quartiere di Poble Sec, alle 20, tra l'altro con anche ospiti che sono amici dello Zibaldone, che sono molto attivi qui a Barcellona, come Alessio Arena e Ugo Aran, ma poi insomma ci racconterai qualcosa anche tu. Io però comincerei subito dal parlare di questo disco, i Foia tornate con un nuovo album dopo insomma dei bei successi come Dimane torna o sole, era il 2013, l'anno dopo A stringermi più forte, e nel 2016 O treno che va, che ne avevamo anche parlato molto qui a Zibaldone. Insomma, dopo questi anni un po' particolari segnati dal Covid, ora dalla guerra, voi insomma questa primavera del 2022 l'avete voluta aprire con questo nuovo disco. Sì, che è un disco che praticamente risente anche di tutto quello che abbiamo vissuto della pandemia, perché era programmato in un altro periodo come uscita e poi dopo si è dovuto adattare, e così si sono dovute adattare anche le canzoni al suo interno, che compongono questo doppio concept, perché Miracoli e Rivoluzioni fondamentalmente sono sei canzoni d'amore che per noi sono i miracoli, che è tutto ciò che è indipendente dalla nostra volontà, e sei canzoni di rivoluzione che sono di indagine sociale e diciamo di comunità. Dicevo, la pandemia ci ha rimesso tutto in discussione, anche a livello produttivo per questo album, nel senso che per la prima volta ci siamo trovati a lavorare anche in una maniera differente, con distanza. Alcune cose sono state registrate nelle nostre case con l'home recording, altre cose in giro per il mondo, perché ci sono tante collaborazioni ed è un disco anche girovago questo. È pieno di cose perché si è impregnato di tutto il lavoro che in questi anni abbiamo fatto, ed è sempre un ponte tra la tradizione e la modernità. E se ti facessi la domanda, forse un po' scontata, che cosa c'è, al di là di quello che ci hai spiegato, di nuovo in questo album rispetto, voglio dire, agli album precedenti di Foia? Come siete, un termine che a me non piace per nulla, Dario, però maturati, no? Come artisti, come gruppo, come progetto, ecco, però questo termine, la maturazione, no? l'album della maturità si dice, però insomma, che cosa vuol dire nella pratica? Che cosa c'è di diverso, forse? È un termine che non piace neanche a noi, perché essere maturi significa arrivare da qualche parte in qualche maniera, e invece vogliamo conservare la curiosità che abbiamo messo in campo anche per questo disco. Ci sono molte più sperimentazioni sonore, c'è più sampling che in passato non abbiamo mai usato, c'è elettronica, ci sono synth, il tutto su un impianto acustico che è un po' il nostro marchio di fabbrica, ma che si è miscelato ad altri suoni, così come per la prima volta ci sono tante collaborazioni vocali. Solitamente erano più musicali nel nostro passato, a parte qualche eccezione. In questo album ci sono più cantanti amici con cui abbiamo ancora una volta scambiato, perché sono artisti apparentemente diversi da noi, come Davide Toffolo delle Tre Allegri Ragazzi Morti, Clementino, il maestro Enzo Gragnaniello, Alejandro Romero, insomma. È un disco ricco, pieno di esperienze, ma non maturo. La maturità la lasciamo ai posteri, diciamo così. È un album molto ricco, davvero, infatti io credo che i nostri ascoltatori se ne stanno rendendo conto, e proprio per questo andiamo a ascoltarci un'altra canzone. La lascio presentare a te, Duie como Nuie. Allora, Due come noi è una canzone che fa parte anche della colonna sonora di un lungometraggio di animazione di Alessandro Racca, che si chiama Yaya e Lenny, The Walking Liberty, ed è la canzone per noi dell'amore senza interesse, senza genere, dell'amore assoluto di tutte le persone che si bastano, quindi buon ascolto a tutti. Eccola qui, ce l'andiamo ad ascoltare e poi rientriamo di nuovo con Dario Sansone qui in diretta su Radio Contrabbanda Barcellona. notte cucco di me, oh saggio che non sogno nata buona, ma tu fai finta di non sapere che a mezzo non ci può avere nessuno. Perché sei fatto con mamma, a casa nostra no, non te ne muro. E a rimanata volta che ci abbandoniamo mai, non costa una bugetto che sto sai. Tu come a noi non si può fermare, piglia una via con destino l'ora. E non te ne padrona chi cerca ogni giorno la strada per camminare. E giorno e portami con te, addonisci una cerca spiegazione. E non ci rimangio perché non te ne prezzo tutto sto calore. Perché sei tale quale a me, ci portiamo a presa non peccato. E a rimanata vuota che non ci abbandoniamo mai, non costa una bugetto che sto sai. Tu come a noi non si può fermare, piglia una via con destino l'oral. E non te ne padrona chi cerca ogni giorno la strada per camminare. Tu come a noi, ma che ci fanno qua? Figlie nessuno che le piace su una, ma tenne tutte cose chi si mette a cercare la strada per camminare. E non te ne padrona chi cerca ogni giorno la strada per camminare. Duie come nuie, miracoli e rivoluzioni, il nuovo disco dei Foie, con noi Dario Sansone per parlarcene anche in attesa del concerto che offrirà Barcellona tra meno di due settimane, il prossimo 30 giugno alla Sala Tinta Roja. Dario, parlavamo delle collaborazioni, ce ne sono davvero tante, prima le hai citate rapidamente, ecco, e soprattutto collaborazioni diciamo di cantanti, voci, non solo strumentali come magari era successo più spesso in passato. Ecco, com'è stato ad esempio collaborare con un artista che da voi, diciamo così, è abbastanza distante come genere, come stile, come Davide Toff? Come è andata questa collaborazione? Ma in realtà con Davide io personalmente condivido la doppia anima di disegnatore e musicista, quindi è stato un incontro che è avvenuto durante il Comic Con di Napoli e chiaramente ci conoscevamo già musicalmente ed era inevitabile che prima o poi confluissimo anche in un featuring. È stato molto bello anche perché Davide si è espresso su questo pezzo che racconta in qualche maniera il nostro rapporto con i social. Si chiama Cosa stai pensando, che è la domanda che ci pone Facebook quando accediamo, vuole sapere i nostri pensieri, vuole tutto. E Davide è stato ficcante, ironico con il suo inserto. Ci sono anche Clementino, lo ricordavi prima, c'è Lorenzo Engeller, c'è Enzo Gragnaniello, di Enzo ne parliamo dopo anche perché ci ascolteremo la sua canzone, ma tra l'altro c'è anche una collaborazione internazionale, quella con Alejandro Romero in una canzone che in realtà era uscita già lo scorso anno, è una canzone che è dedicata a Diego Armando. Sì, è l'adattamento napoletano della Mano de Dios di Alejandro Romero, per l'appunto, che è l'autore originale. Era la canzone preferita da Diego, sulla vita di Diego, Infatti c'è questa clip nel documentario di Gusturiza in cui Diego interpreta passionalmente questa canzone cantata da Rodrigo, che purtroppo è un autore, che è un cantante argentino scomparso nel 2006, se non sbaglio. Ed è per noi, diciamo, il nostro omaggio a Diego Armando Maradona, l'incontro tra Buenos Aires e Napoli, cioè tra due città orfane del proprio mito, raccontate però con gli occhi e con il cuore dei napoletani. E sono molto contento che Alejandro abbia voluto contribuire e collaborare a questa versione più malinconica di un pezzo che nella sua versione originale è più ritmato ed è più giustamente la malinconica. Anche qui ci sono interventi di musicisti argentini al bandoneon e alle percussioni che si sono sposate con il nostro sound. Ascolta, a questo proposito, qual è stato il feedback a Napoli quando è uscita la vostra canzone? Non so, hai qualche aneddoto da raccontarci? Perché insomma immagino che la gente l'abbia cantata ancora molto, soprattutto l'anno scorso. Guarda, il primo feedback è stato pazzesco, perché addirittura nel periodo della pandemia, in cui non si poteva andare allo stadio, mi sono arrivati dei video di tifosi che erano per strada a cantare questo pezzo, a preparare il coro di questo pezzo. Quindi è stata veramente una situazione abbastanza complessa. Poi abbiamo ricevuto dei commenti da Gianni Minà, da tanti, diciamo, uomini legati a Diego, che ci fanno onore. Il pezzo è finito in documentario, adesso è nell'ultimo documentario della FIFA che si trova online, un documentario su Diego Armando Maradona, e ci sono io in un'intervista e c'è questa canzone. Insomma, è stato una bella soddisfazione delle nostre. Sì, poi è stato in Argentina, è stato proiettato il videoclip di questa canzone durante la finale di Copa America tra Brasile e Argentina. Insomma, è una canzone viva, che non è nostra, non è più nostra, ma è di tutti i napoletani e tutti gli innamorati di Diego. Sì, guarda, ce l'andiamo a sentire, perché io credo che hai fatto venire una gran voglia anche ai nostri ascoltatori di sentirla, se già non la conoscevano. Sicuramente la conoscevano nella versione originale. Andiamo a sentire A Mano e Dios e poi torniamo qui con Dario Sansone. Nascetto in mezzo a una via, come per sfizio in un Dio, che ci facetto capire che tutto non può fornire. Rinta la periferia, cercando una buona via, pigliando a capo c'è vita. Per mille giorni su rai, sporche turrene e dolore, capono solo pensiero a diventare un campione, pur te speranze in te casa, e chi non ha avuto niente, e non vorrei più a miseria, e vado restavi sola, con l'occhio aperto a sonnare, e tutta gente cantai Maradò, Maradò, e tutto stadio a Lucai Maradò, Maradò, lucevo come una stella, senza paura fa guerra. E tutta curva cantai Maradò, Maradò, nascetta mani di As Maradò, Maradò, facette tutto contento, ma sai mai sta terra. Portando un cuore una croce, a croce resero meglio, per non si vennero mai a chi è padrone romano, e si è caruto Gesù, perché non può care tu, che ti giocato ogni sfida. A certo lo presentai un'amica vestuta bianca, che faceva un pazzi, non si sentiva mai stanca, fa cazzotto col tempo, che non c'era rete niente, si tiene un'anima vera. Mo che ha fornuta partita, Diego non si può scordare, e tutta gente cantai Maradò, Maradò, e tutto stadio a Lucai Maradò, Maradò, lucevo come una stella, senza paura fa guerra. E tutta curva cantai Maradò, Maradò, la accetta mani di Asmarado, Marado, facette tutto contento. Cosa io mai in sta terra? Ole, ole, ole, ole, Diego, Diego. Ole, ole, ole, ole, Diego, Diego. Ole, ole, ole, ole, Diego, Diego. Este suelo, cosa hay mai esta terra, riego de gloria este suelo, cosa hay mai esta terra. A mano e Dios, i Foia, Miracoli e Rivoluzioni, il loro ultimo album. Siamo qui con Dario Sansone per parlarne. Dario, parlavamo prima della pandemia, anche come ha influito sul vostro disco. Ecco, Napoli è una realtà musicale molto interessante, non solo negli ultimi anni, lo è da sempre, ma io credo che negli ultimi anni sta proponendo cose davvero molto belle, nuove, insomma c'è molta innovazione, ci sono tanti artisti. Ecco, insomma, tu che a Napoli ci vivi, ci suoni, conosci l'ambiente, insomma sei una delle anime di questa nuova ondata musicale, cantautorale napoletana. Com'è la situazione adesso dopo due anni segnati dalla pandemia, senza concerti live? Cosa si sta muovendo? Allora, quello che si sente è che sicuramente la gente ha voglia di tornare ai concerti, ha voglia di tornare a una presupposta normalità, perché non possiamo fare a meno di sentire e avvertire la pressione di un conflitto che per quanto pare che sia distante, oramai dura da due mesi e oltre, e che comunque influisce sulle nostre vite, perché esempio banale, comunque i prezzi in generale dei beni alimentari o energetici sono in alcuni casi anche raddoppiati. Quindi al di là di questo c'è una voglia matta di ritornare alla musica, di rivedere i propri artisti del cuore, e Napoli è sempre stata attiva, viva, è ancora musicalmente attivissima. Ci sono state tante uscite in questi mesi, oltre al nostro disco, Alma Megretta, La Maschera, insomma ci sono tanti progetti legati non solo al territorio ma anche che fanno musica più eterogenea. Ma se posso... Sì. Allargare lo zoom di questo Google Earth, che è una questione nazionale in atto, secondo me, che in Italia la cultura non è stata tutelata negli ultimi due anni, ed è una condizione che viene messa sempre in secondo piano, e credo che la cultura invece sia tra le basi di un paese. Per la maturazione istituzionale di un paese, perché la cultura è curativa per le anime di un popolo. Assolutamente. Questo mi permette di puntare l'obiettivo e mettere in luce questa problematica, perché io so che negli altri paesi c'è un rispetto per la cultura, per le arti, differente, più accogliente, più attento, e questo forma gli ascoltatori, forma i fruitori di cinema, forma tutta una serie di parte della popolazione. Sì, la cittadinanza, in fin dei conti, promuovere e difendere la cultura, soprattutto in questi ultimi tempi, no? In questo momento che è specialmente difficile per chi fa cultura, sia nell'arte come nella musica, come appunto anche nel cinema, lo sappiamo bene. E, dicevamo prima, Dario, che il 30 giugno sarai qui a Barcellona. Che tipo di concerto offrirai al Tinta Roja? Allora, sarà un concerto intimo e denudato, nel senso che le canzoni saranno spogliate dagli arrangiamenti, così come sono venute fuori e sono state scritte, e attraverseremo sia, diciamo, i grandi classici, tra virgolette, dei Foia che il nuovo album verrà raccontato, e poi avrò l'onore e il piacere di ospitare Hugo Aran, che è un magnifico cantautore spagnolo, è il nostro fratello. Che vi abbiamo dato in prestito, che è Alessio Arena, una delle voci migliori della nostra città, che vi ripeto, ve lo prestiamo, poi ce lo dovete restituire. Noi ce lo teniamo stretto per il frattempo, comunque. Ascolta, tra l'altro, con cura, con cura, e dopo ritornerà sicuramente. Ascolta, tra l'altro, la Sala Tinta Roja, come gli ascoltatori sanno, si trova nel quartiere di Poble Sec, Carrer Creus dels Molers 17, e voi altri Foia, Dario, ricordo che a Poble Sec ci avete suonato ormai parecchie estati fa durante le feste del quartiere, è vero? Wow, sì, tantissimi anni fa, era proprio un periodo di esordio, credo, del 2006-2007, sì, un'esperienza incredibile, e poi siamo tornati nel 2016 a Ratmataz, è vero, dopo la collaborazione con La Pegatina, che è una band catalana, sì. Infatti sentirò anche Adrià Salas, e vediamo se il 30 lo becchiamo. Magari fa un salto anche lui al Tinta Roja, vediamo. Comunque, insomma, alle 20 al Tinta Roja il 30 giugno per Dario Sansone, con anche la presenza di Alessio Arena e Hugo Aran. Dario, per salutarci mi piacerebbe che ci dicessi qualcosa riguardo alla collaborazione con Enzo Gragnaniello. Allora, Enzo è per noi una questione di sangue, perché è un poeta della nostra città a cui siamo legati da questa linea di sangue, perché è inevitabile dire che la forma canzone, il modo con cui autorialmente e con la lungimiranza di saper miscelare tradizioni e suoni mediterranei è sicuramente parte della nostra storia e del nostro percorso. E io sono stato onorato del fatto che Enzo abbia voluto cantare le mie parole su questa canzone, ed è una canzone addirittura dove lui si è innestato perfettamente in questi suoni elettronici, perché gli piace proprio sperimentare ancora questa, diciamo, questa voglia di scoprire, di rimettersi in discussione, quindi c'è questo viaggio subacqueo in questa canzone, si chiama Mi Sa Niente, fatta con questo Virgilio che è Enzo Gragnaniello. E allora ce l'andiamo ad ascoltare con questa canzone, anche ti salutiamo, ti mandiamo un abbraccio e ti aspettiamo il 30 giugno qui a Barcellona. Grazie di essere stato con noi, Dario. Grazie a voi e vi aspetto tutti. Ciao, aiù. Solo sbatto un coppo fiero della mera, senza cicchiera era permessa, ecco una colpa un coppo all'anima si nasce, correndo forte pari vacchio a breve. Chi te nu può ripreta può dormire sicuro, senza se mettere paura, e puttananza vita soia che le lato, pensando se senti più fortunata. Ma un punto umano sta con cose che non può sapere, perché tu parli pure te. Mentre creatura io con ancora, o solo fasci fora gente di casa, mi fa catta bocca da cosa. e tu volisse tutta quella che non ti serve, e ti senti più ricca mia sa niente. Ma un mare sta qualcosa che non vuoi avere, perché ti parlo pure te. E tutto quello che rifusa, e mo non cerca scusa, perché ancora non creature, io con ancora. Pennywise, tu il lupo, hotel. Tutto ciò che esiste, esiste grazie a lui. Per lui non c'è via di fuga, per lui non c'è via di fuga, per lui non c'è via di fuga. Clown File, Luca Faggella insieme a Giorgio Baldi, la canzone che apre un disco davvero bello, un progetto che io credo sia davvero importante, di cui è importante parlare, si titola Parole Liberate, un progetto musicale ma anche culturale e sociale, un progetto che nasce in realtà nel 2014, Banzo, grazie all'associazione di promozione sociale Parole Liberate oltre il muro del carcere, e praticamente si proponeva ai detenuti in diversi carceri italiani la scrittura di un testo che sarebbe diventato una canzone grazie alla collaborazione con musicisti e cantautori. Il progetto è andato avanti fino praticamente insomma all'inizio della pandemia, che l'ha reso impossibile, e poi si è trasformato anche in un album in cui si è proposto a diversi artisti. Lo ha fatto l'etichetta Baracca e Burattini di Paolo Bedini, che è direi molto conosciuto, o dovrebbe esserlo anche ai nostri ascoltatori per tutto quello che ha fatto negli ultimi 40 anni approssimativamente. Artisti che hanno scelto alcune di queste canzoni, le hanno adattate, le hanno incise. Ecco, quella che ci siamo appena sentiti di Luca Faggella è una di queste canzoni. Un progetto che coinvolge 14, sono 14 brani e anche più artisti, più di 14, ecco. Banzo, secondo me un progetto davvero bello, un progetto importante, un progetto soprattutto necessario. È difficile dire qualcosa, perché effettivamente il tema delle carceri è... lo posso dire, ci sono molte persone sensibili a questo tema, e un'iniziativa di questo genere ne è una prova eccezionale. Però io purtroppo, è questo che stavo cercando di dire, vedo nell'opinione pubblica italiana un'insofferenza, l'opinione pubblica italiana che spesso sono i commenti sui social, quindi il livello è basso, però è indicativo, un'insofferenza verso la figura del carcerato, come se la sono cercata, devono crepare sostanzialmente. Sì. Mentre ascoltavo il brano e mentre spiegavo il progetto, era questo il pensiero, diciamo, sul quale mi stavo arrovellando, perché purtroppo ogni volta che si parla di riforma delle carceri o che magari si pubblica un aneddoto positivo di un ex killer di Camorra che è giunto, di Andrangheta o di Sacra Corona Unita, che è giunto alla quarta laurea, continuo a vedere dei commenti negativi, come se veramente la riabilitazione, la redenzione, che non sempre succedono, fossero categoricamente impossibili. Ecco. Sì, assolutamente, o sbagliate, ecco. Dicevo, tra i tanti artisti che partecipano, oltre a Luca Faggella, ci sono anche alcuni artisti che abbiamo intervistato recentemente a Zibaldone, almeno in questo 2022, come Andrea Chimenti, insieme a Gianni Maroccolo, ma anche Fabrizio Tavernelli, che abbiamo avuto ospite qualche settimana fa. Ma poi ci sono anche Ambrogio Sparagna, gli Yo-Yo Mundi, che vennero in radio ormai direi una decina d'anni fa qui a Radio Contrabbanda, e tantissimi altri artisti. Noi vi proponiamo, ecco, sì? Quanto sarebbe bello intervistare Enrico Maria Papes dei Giganti, sì, in questa compilation. Hai proprio ragione. Noi però ci andiamo a sentire un'altra canzone che si intitola Hotel Chimera, e sono Petra Magoni e Finaz che ce la cantano. facevo freddo, lo so, lo so. Dio, come lo pativi, tremavi. Ed io che ingenuamente provavo di scaldarti il raggelato cuore. Sapevi che non sarebbe stato sufficiente. Infatti non bastò. E poco dopo prendevamo una camera stretta, stretta, all'hotel Chimera. Il ripostiglio, una sola piazza, lo prendemmo così, perché costava un niente. E poiché io con la scusa di non cadere potevo starti più vicino, più vicino, più vicino, più vicino. Faceva freddo, lo so, e noi abbracciati nudi in quella stanza. Faceva freddo, lo so, e noi abbracciati nudi in quella stanza, volendoci di più, smettemmo di amarci. Che bella questa canzone, Petra Magoni e Finaz, Hotel Chimera, dal disco Parole Liberate che stiamo presentando quest'oggi qui a Zibaldone, un disco molto bello, molto importante come ricordavamo prima. Banzo, un intervento telegrafico se vuoi su questa canzone. Ma sono stato quasi tutta la canzone, comunque sì, anche io l'apprezzo, voglio chiarire, a rovellarmi sul perché, nonostante la voce di Petra Magoni sia molto diversa, io abbia pensato spessissimo alla Bertè. Ecco, forse come intenzione interpretativa, perché la voce è un'altra, però siamo un po' da quelle parti lì, e il brano comunque sì, è molto riuscito, come sottolineavi, con questo strumentale liquido in sottofondo. Eh sì, noi andiamo a sentirci un altro brano, perché credo che questo disco, insomma, meriti di essere presentato. Loro sono i Magica Bula Brass Band e la canzone si intitola E il pensiero vola. Pensiero vola, vola da te. dentro per non impazzire. Un gesto e un pensiero, non voglio più soffrire. Asciugo le lacrime, mi danno una scossa. Da questo inferno esco, per amore o per forza. Mi guardo allo specchio, mi fermo e ti penso. Il tempo è passato, ma non sono diverso. Mi guardo allo specchio, mi fermo e ti penso. Il tempo è passato, ma non sono diverso. E il pensiero vola, e il pensiero vola, e il pensiero vola fuori da qui. E il pensiero vola, e il pensiero vola, e il pensiero sono i Magica Bula Brass Band, Il pensiero vola, un'altra delle canzoni contenute in Parole liberate, questo bel disco, questo bel progetto di cui vi abbiamo parlato quest'oggi. Voliamo subito ora però a Milano, perché ci aspetta lì Andrea Tarquini per parlarci del suo nuovo disco In fondo al Novecento, che è anche il titolo della canzone che ci ascoltiamo ora. In fondo al posto delle fragole c'è una ragazza con un cane blu. Camminava di striscio, ci ho ballato un liscio. E non l'ho vista più. In fondo al mondo in bianco e nero, mio nonno è una foglia, disegnava dal vero. E anche in mezzo alla neve, con la sua mitraglia. Restava lassù. In fondo alla piazza c'è una storia vera. C'era mia madre e la sua borsa di tela. E altri 2000 e una grande bandiera. E c'eri anche tu. In fondo al mare sembra tutto uguale. Tutto sembra normale, che succederà? Forse non era Natale. Ma chi è rimasto là sotto? Non ritornerà. E in fondo agli anni se rimango sveglio, faccio quel che voglio e poi viaggerò. Spiegherò a mio figlio che parlare alle fate servono parole mute sulle strade blu. In fondo al mondo della tua apparenza caccerò via chi non ha coscienza. Quelli che chi ci pensa rimane senza. Sarà così. in fondo non so come dirlo. C'è ancora vento e tanto mare mosso. Una vecchia storia di felce e mirtillo. Io sono sempre lo stesso. In fondo al posto delle fragole buone, quella ragazza con il cane blu era come un pensiero che non si toglie e che adesso è mia moglie. E in fondo è così. Questo è In fondo al Novecento, il singolo che dà anche il titolo al nuovo album che esce proprio quest'oggi, nuovo album di Andrea Tarquini, cantautore romano, milanese d'adozione, che è già stato nei nostri studi qualche tempo fa, pre-pandemico ormai bisogna dire, quindi il tempo vola. Ma bando alle ciance, bentornato Andrea, un piacere averti di nuovo con noi. Grazie, è sempre un piacere essere con voi, vi ascolto quando posso e tornerò volentieri quando si potrà. Noi ce lo auguriamo, ce lo auguriamo. Eri stato con noi, se non ricordo male, nel 19, giusto prima, insomma, dell'anno novembre, sì. Che ha fermato il mondo, quindi pochi mesi prima della pandemia, ci avevi regalato dei bei momenti, non solo in radio ma anche con un concerto in cui avevi presentato il tuo precedente disco, che ormai è uscito qualche anno fa, nel 2016, Disco Rotto, sì. Quello era il tuo secondo, sì, album. Il primo invece era Reds, canzoni di Stefano Rosso, insomma il tuo maestro, esatto. Ma un maestro di tante persone a Roma e non solo a Roma. E ora invece appunto esce questo tuo nuovo disco. Noi in realtà In fondo al Novecento l'avevamo già mandato in onda qualche settimana fa, che era uscita in anteprima rispetto al disco. Oggi ce la riascoltiamo perché proprio, insomma, quest'oggi esce questo tuo terzo album e sono contento che proprio nel giorno dell'uscita lo presenti con noi. Che cosa c'è in fondo al Novecento, Andrea? Un disco che io ti direi sento molto personale, molto intimo, è così? Sì, è... Sono fondamentalmente storie che può sentire molto vicine chi ha l'età mia, e quindi sono storie abbastanza generazionali. E quindi che siano storie poi mie o alcune soltanto dei pretesti, poi quello è così, è un caso in cui, diciamo, l'autore fa dei salti tra cose più proprie e cose un po' meno, ma che sono, insomma, più o meno storie comuni, ecco. Quindi sì, però comunque una presenza, diciamo, anche, diciamo, intima in alcune parti del disco c'è, ecco. Ecco, anche nell'altro brano in realtà, che è uscito già qualche settimana fa e noi avevamo già proposto ai nostri ascoltatori, UFO Robot, anche lì, insomma, sì, già dal titolo questo fenomeno, diciamo, di questi richiami generazionali è molto presente, no? I tre Franceschi, poi non ricordo, sì, se in quel brano o In fondo al Novecento, adesso mi sono un attimo perso, però Aldo Moro, Goldrake, sì, insomma, qui appare tutta una, sì, generazione, sì, tra gli, certo, anni 70 e i primi anni 80, insomma, per capirsi. Sì, sì, beh, sono gli anni in cui ero bambino e sono gli anni nei quali è cominciato tutto, anche la mia storia con la musica, ma soprattutto sono anni formativi e sono anni poi che, insomma, restano molto utili se uno li legge per capire l'oggi, e anzi forse se uno non li legge poi non capisce l'oggi, e questo è uno dei temi ricorrenti del disco. Peraltro poi le due canzoni appena uscite, UFO Robot e In fondo al Novecento, hanno una tematica assolutamente simile, ma appunto una da un punto di vista più intimistico e l'altra un po' più spensierata, insomma, però grosso modo è il tema della memoria che ritorna. Eh sì, tu infatti presenti anche un po' ironicamente questo disco come musica per adulti, no? Non essendo non nel senso che è vietato ai diciottenni, ma che molti riferimenti li capiscono solo quelli di alcune generazioni, no? Sì, anche perché guarda, poi devo dire, cioè, io credo che gli artisti si rivolgano ad un proprio pubblico da sempre, no? Anni fa magari non sarei stato d'accordo con questa affermazione, no? Nel senso, mi stupì molto vedere alcuni artisti che scrivono canzoni magari apposta perché c'è un pubblico particolarmente sensibile a certi temi. In realtà, se guardiamo bene, gli artisti hanno sempre fatto qualcosa anche per stuzzicare un proprio pubblico, ma non mi riferisco solo ai musicisti. E quindi, come dire, un po' anche per questi motivi qua, a un certo punto mi sono detto vabbè, ma se mi metto a fare il ragazzino diventa anche poco credibile, se non addirittura ridicolo. E quindi rivolgersi ad una generazione è in qualche modo anche un brand, no? Nel senso che noi siamo 40-50 anni e parliamo di certe cose, insomma, è normale che sia così, come è anche normale il contrario, nel senso che un ventenne non difficilmente parlerà di cose di cui posso parlare io, ecco, sicuramente. In una canzone. In una canzone. Un'altra cosa che tu dici presentando questo disco è che la scrittura delle canzoni ovviamente, non è talebana. Sì. Che cosa vuoi dire con questo? Ma nel senso che io sono, come dire, oltre che un cantautore legato a un certo periodo della canzone d'autore italiana, eccetera, cerco di praticarla, di farla, eccetera, e nel difenderla però dico anche attenzione a non fare una caricatura. Sai, cantautori forzatamente parolai o cose del genere. Insomma, io penso che la canzone deve essere anche canticchiabile, come dire, no? Nel senso che deve mantenere anche una sorta di leggerezza, e quindi, come dire, è sempre un po' una quadratura del cerchio, quindi è anche da questo punto di vista normale che ce ne siano alcune più riuscite di altre, ma è, guarda, assolutamente paragonabile a un ciclo di lavori, non so, di un pittore, per esempio. Ecco, io ho fatto l'Accademia delle Belle Arti, per cui mi ricordo molto di queste delle arti figurative, ed è un po' simile come processo, no? Nel senso che c'è un'osservazione, tutto ormai è in qualche modo derivativo, per cui ti rientrano nella scrittura e nella penna delle cose che non sai neanche di aver sentito, ma le hai sentite, e alla fine però l'equilibrio che secondo me si deve avere è quello tra un racconto che è quasi drammaturgia e come dire, uno scatto, no? Cioè è come se tu scattassi una fotografia, un momento, l'hai fermato e cerchi di fare quello e fare in modo che venga ricordato anche, no? Condiviso, ecco. Ascolta, quindi in questo senso sento la necessità di una forza anche nella leggerezza, sì, anche dove sì. Magari ci sono argomenti magari anche forti, però insomma è sempre una canzone, insomma. Certo. Ascolta, a questo proposito, parlando di canzoni, insomma, la tua carriera dal punto di vista discografico come cantautore solista, come musicista, hai tanti anni alle spalle, sì. E di questo anche dopo vorrei parlare con te, della musica e delle influenze e degli strumenti anche presenti in questo disco, ma sì. Ora invece volevo parlare, insomma, la tua carriera da solista è cominciata in realtà con Stefano Rosso, diciamo, e con quel disco che menzionavamo prima, Reds, sì. No? Sì. Sono passati ormai praticamente 10 anni, ecco, l'Andrea Tarquini di questo 2022, di In fondo al Novecento, rispetto a quel primo lavoro, diciamo, no, che era anche un po' un tributo, ecco, un omaggio a chi ti aveva segnato e insegnato tanto, no? Stefano Rosso, ecco, l'Andrea Tarquini di oggi com'è cambiato rispetto a quello di 10 anni fa? Beh, tanto, perché in 10 anni tutti cambiano molto, però all'epoca ero molto ingenuo e anche, devo dire, anche un po' attaccabrighe, discutevo e bisticciavo con tutti, e questo disco nacque perché sulla spinta di Luigi Grechi, fondamentalmente, che è il fratello maggiore di Francesco De Gregori, no? Che mi disse: hai suonato con Stefano, canti bene quelle canzoni e le sai suonare ancora meglio, sbrigati a fare questo disco, se no lo faccio io. E quindi nacque così questa cosa, dove lui mi affidò alle sapienti cure di Paolo Giovenchi, e così nacque questo progetto. E io tutto potevo immaginare, fuorché avrebbe poi fatto tutta sta strada, finalista alla Cinquina Tenco, insomma, e soprattutto non mi sarei mai immaginato che in una qualche maniera mi avrebbe poi lasciato tra le mani un mestiere, questo proprio nel modo più assoluto. E, però ecco, ero molto più ingenuo di oggi. Oggi sono magari su certe cose un pochettino disincantato, però non, cioè, rimane uno dei mestieri più belli del mondo, insomma, perché significa comunque raccontare delle storie, divertirsi, e fare un mestiere che in qualsiasi società avanzata dovrebbe essere un mestiere, insomma, necessario, insomma, serve che ci sia qualcuno che lo fa. È come. Ascolta, parlavamo di cantautori, la prossima canzone che ci andiamo a sentire è Cantautori Indipendenti e ti accompagna Federico Siriani, poi rientriamo e ne parliamo insieme a te. Benissimo, buon ascolto. Storia d'amore, o forse chissà, schiacci l'acceleratore, ma non partirà. Forse una fine violenta, o una storia da bar. Tutto avveniva di notte, passate le tre. Tornare con le ossa rotte, ma sentirsi un re. E forse un giullare di corte canta meglio di te. Tanto lo sai, principesse non cantano più, ogni mattina il tuo Dorian Gray guarda uno specchio di whisky e tu non ci sei, ma cammini per strada che sembri Prévert. La tua regina di cuori ormai è un altro re. La tua coperta di Linus mente meglio di te. Staccano il gas. cantautori indipendenti, qui accompagnato il nostro Andrea Tarquina che è con noi in collegamento telefonico da Federico Sirianni. Andrea, com'è stata questa collaborazione? Tra l'altro per parlare di cantautori indipendenti, quindi c'è molta ironia, no? Sì, sì, è il mestiere vero che facciamo, io e Chico Sirianni e molti altri come Max Manfredi, non so, Tiberio Ferracane, insomma ne posso dire tantissimi. E, niente, questa è una canzone che è nata in campagna, per cui nel posto, nella casa di campagna dove io sono stato mesi a fare... come dire, il buon ritiro durante la pandemia, quella, il lockdown vero e proprio. E, come spesso mi accade, era nata prima la musica. Quando venne fuori questo argomento dei cantautori indipendenti, io ho pensato agli alti e bassi, no? Cioè al fatto di momenti assolutamente gloriosi e momenti che torni con le ossa rotte ma ti senti un re, insomma, no? Oppure che hai fatto un gran concerto ma poi magari ti staccano il gas, come è successo a molti. E quindi, siccome io so che con Sirianni questi argomenti erano sentiti in maniera comune, no? Perché certo, appunto, questo è un mestiere, quando sei un indipendente sei esposto a qualsiasi intemperia, che devo dire ha anche il suo fascino, nel senso che un domani che non dovessimo essere più indipendenti sarà perché c'è qualcuno che ci copre di soldi, però devo dire che finché non è così, ecco, la bellezza di poter dire qualunque cosa e la libertà di essere quello che si è comunque una cosa impagabile. Quindi io ero certo che Sirianni avrebbe sentito come anche suoi alcuni dei versi di questa canzone, quindi ci siamo trovati insieme e l'abbiamo fatta. Certo. È stata, peraltro, lui ha cantato in 10 minuti in maniera perfetta. Ascolta, a proposito di altre collaborazioni, insomma, ci sono parecchi musicisti che suonano insieme a te, e anche per quanto riguarda la musica, insomma, qui continui un po' quello che è insomma il tuo una delle tue passioni, la musica, diciamo, il mio habitat, la musica americana, insomma, il folk, il country, il bluegrass, insomma, anche se appunto è un disco molto vario dal punto di vista di generi musicali. Sì. Diciamo che allora è un po' meno country bluegrass degli altri, perché appunto volevo spaziare un po', ma la stessa in fondo al Novecento, ti posso dire, in altri anni non l'avrei fatta perché mi sembrava troppo autorevole, no? E quindi rischiava di essere magari un po' pomposa, visto che ci sono gli archi, eccetera. A un certo punto ho guardato, come dire, la carta d'identità e ho detto: vabbè, ma io ho in fondo anche un'età in cui lo posso fare. Forse se fossi stato più giovane non l'avrei fatto. Per cui sì, è un po' più vario, ma alcune sonorità rimangono. Addirittura, insomma, ho fatto alcune cose con diversi musicisti americani in questo disco. Perché alcune cose loro le fanno meglio di chiunque, questo senza nulla togliere alcuni nostri bravissimi, che peraltro nel disco ci sono, perché penso appunto a Paolo Giovenchi, ad Alex Valle, quindi un bel pezzo di band di Francesco De Gregori, però poi ci sono anche appunto quelle cose che soltanto in America ti danno, come certi fiddle, certi violini, certe pedal steel guitar. Ecco, io sento che quello è il mio quello che è il mio habitat sonoro, no? Completamente. E quindi insomma, io le canzoni le sento così. Poi, sai, quando l'hai finito un disco lo vorresti sempre rifare meglio di come l'hai fatto, no? Ma quello succede sempre. Però, ecco, devo dire che se non fosse mio me lo andrei a comprare. E anche noi siamo dello stesso avviso. Ascolta, tornando un momento sui testi di queste canzoni, sì, no? Parlavamo di storie di vita, insomma ci sono storie di coppie che scoppiano, di coppie un po' sbandate, il mare appare varie volte, di storie di poeti o insomma di scrittori che decidono di stare su un'isola greca e non tornare tornare più e guardare il mare, le ragazze. Insomma, ci sono tante storie, ma è un disco figlio dei mesi della pandemia e della voglia di viaggiare? Ma in realtà la voglia di viaggiare, di fare, eccetera, ce l'avevo anche prima. E quindi di mio, in maniera particolare, forse ci ho messo proprio il desiderio di poter fare di più di quello che faccio, una vita forse anche più contemplativa, no? Poi in realtà sono anche delle illusioni che uno si fa, perché poi a volte è proprio la mancanza di una cosa a portarti al risultato finale di una cosa che funziona, che canta, che racconta, ma magari in maniera diversa da come tu te l'hai immaginata. Sì. Ognuno di noi ha un'immagine di se stesso che magari non è sempre quella reale, e questo in parte a volte è anche una fortuna, perché così si hanno anche delle sorprese. E come? Ascolta, noi Andrea ci salutiamo con un terzo brano dal tuo ultimo disco, che lo ricordo esce proprio quest'oggi, In fondo al Novecento. La canzone si intitola Pioggia d'estate, e visto che sta facendo molto caldo in questi giorni Barcellona, e non solo a Barcellona, anche a Milano immagino, mi piacerebbe che ce la presentassi tu per salutarci. Ci sono molto affezionato, perché è una canzone che ho scritto nella nuova casa dove oggi vivo, e quando l'ho scritta non erano ancora iniziati i lavori, cioè era tutto talmente vuota, e io mi ero trasferito qui temporaneamente con il mio piccolo studio, e casualmente venne fuori questa cosa, e quindi è la storia di una coppia un po' che sono un po' dei freak pancabestia coi cani, sai, un po' così, che partono da una periferia abbastanza estrema di Roma con i mezzi pubblici per andare a Ostia, pensando che una giornata di mare poteva forse avvicinarli di più, farli comunicare meglio. Però poi arrivano e non trovano Ostia degli stabilimenti, del divertimento, eccetera, eccetera, ma trovano un'Ostia molto più pasoliniana, zozza, decadente, decaduta, eccetera. E arriverà la pioggia che li riempirà di sabbia bagnata, e quindi in questi ritornelli esce fuori il loro desiderio di quello che non hanno. E poi però insomma rimane l'incomunicabilità, come si diceva una volta, insomma, fra questi due. Ce l'andiamo a sentire, e anche allora. E anche qui c'è un bellissimo fiddle, un violino americano del mio amico John Fraser, che insomma ha dato il meglio di sé. Allora, una meraviglia. Allora ce la andiamo a sentire. Ascolta Andrea. Sì, buon ascolto. Grazie davvero di essere stato con noi, complimenti per questo disco e ti aspettiamo presto a Barcellona. Grazie a voi Steven, è sempre un grande piacere essere con voi e spero di venire a suonare presto. L'estate entrava forte senza farsi sentire, bagnati dalla pioggia che era scesa per ore. Li ho visti sulla strada per andarsene al mare, due cani, una coperta e tutto senza parlare. Alla fermata c'era un'altra storia d'amore, e chi ne ha viste cento e passa a sciogliersi al sole. La spiaggia è ancora lunga e non è più divertente, la pioggia porta via e non ti lascia più niente. Regalami sorrisi in una fotografia, riportami la sabbia che hai lavato via. Thank you. sentire, il tempo non bastava per portare l'amore. Per portare l'amore. Domani a Milano, dopo la pandemia, il Salone dei Referendari, prezioso ecosistema sempre più a rischio. Ancora caos e proteste a Palermo, dove i seggi hanno aperto con 150 ore di ritardo a causa dell'assenza di Rino Gattuso. Conte, non ci sono più scuse. Vogliamo frenare l'inflazione record attraverso il nostro amore. Governo pronto a lanciare a luglio un nuovo gazebo con salottino e champagne, ma senza spaghetti che costano 2,5 volte in più, mentre il pane torna protagonista. Poi fa esplodere alcuni ordigni e fugge la polizia. Giornata shock di uno squilibrato. Zelensky chiede la mediazione di Berlusconi per un futuro di interruzione di pubblico servizio. Complici sole e caldo, l'ex presidente russo Medvedev è il nuovo allenatore del Valencia, ma solo per domani. Dei calciatori dice: li odio, farò di tutto per farli sparire. Russia e Turchia avrebbero raggiunto un accordo per lo sblocco del trasferimento di Paolo Dybala all'Inter via mare. Circolazione deviata, giornata shock nella capitale per tutti i partiti. Nel cuore di Roma il corteo degli amanti del design e dell'arredamento di religione islamica al ritmo di canti e balli per chiedere più discriminazione sessuale. Alla cucina e al divano Putin, un segno di maturità civile, povertà e carenza di figa, colpa dell'Occidente. Dopo un'imponente caccia all'uomo nella Motor Valle Emiliana, lo sciamano di Confcommercio Massimo Durek Calendones viene trovato nella sua auto mentre balla come Fred Astaire. Le 7 persone a bordo prendono le distanze. Si rischia lo stallo diplomatico nel parcheggio. Siamo qui ancora una volta, siamo sicuri che adesso si svolta. C'è il bando che sta parla fuori onda, occhio che il capo s'arrabbia. Radio Contrabanda, siamo in onda, Steven fa la domanda. Siamo qui ancora una volta, siamo sicuri che adesso si svolta. C'è il bando che sta parla fuori onda, occhio che il capo s'arrabbia. Radio Contrabanda, siamo in onda, Steven fa la domanda. Radio Contrabanda, siamo in onda, Steven fa la domanda. La domanda la faccio sì, e ancora più delle altre volte, Banzo, perché devo dire la verità, io non ho capito nulla di quello che è successo nel mondo nell'ultima settimana, dopo aver ascoltato le ultimissime del nostro caro Fausto De Salvia, che saluto e ringrazio. Ecco, aiutami tu, Banzo, perché né in ambito nazionale né in ambito internazionale, insomma, ci ho cavato un ragno dal buco. Più o meno è sempre così, Steven, quindi io non mi preoccuperei, le ultimissime sono frequentemente ermetiche. Io comunque non posso seguirti nella spiegazione perché sono ipnotizzato dalla figura dello sciamano di Confcommercio Massimo Durek Calendones che balla come Fred Astaire in macchina e le 7 persone presenti si dissociano. Ma quindi, che macchina era? Manca questa informazione. Non una Fiat 128, ecco, credo. Vabbè, vogliamo dire qualcosa su Berlusconi o Dybala? Beh, Dybala a me andrebbe bene, sono tifoso dell'Inter, quindi io sono anche a favore, però questo non interessava, credo, ai nostri ascoltatori. Però c'è questa giornata shock di uno squilibrato che è il pane che fa esplodere alcuni ordigni. Non ho capito bene, forse diciamo che la fobia verso il glutine, a parte naturalmente per i celiaci che sono giustificati, forse ha raggiunto dei livelli un po' estremi e quindi ha spinto a delle reazioni ingiustificabili, ecco, diciamo. Eh sì, vabbè, andiamo avanti perché abbiamo ancora un paio di news musicali, ci avviamo alla conclusione di questa puntata di Zibaldone. Vi proponiamo ora un brano dal nuovo EP di Vargas, meglio conosciuto in Sardegna ma anche nella Plaza Real di Barcellona, storica sede di Radio Contrabanda, come Giovanni Vargiu, cantautore e musicista sardo. È uscito questo suo nuovo EP che si intitola Vita, 4 brani che segnano anche una collaborazione con un poeta che è Lino Graz. Noi ci ascoltiamo un brano che si intitola Terra, un brano in questo caso scritto da Giovanni Vargiu e che suona così. Sentitevelo perché è un bel brano e ci fa viaggiare, visto che si avvicina l'estate, è molto piacevole. Carica di promesse. E ci piaceva stare lì, senza mai partire. Come fosse l'unico modo per viverle tutte, quelle promesse. Ma un giorno me ne andai, senza salutare. Libero! Niente ormeggi. Islanda, in ogni porto scrivo il mio nome, lo vedo volare, unirsi all'acqua, farsi lava di luce, lampo d'argento, abisso corrente. Sorgente, linfa, radici, terra, terra, terra. Terra. Libero! Baldone, perché dove saremmo noi senza Leopardi? La rubrica di libri del nostro programma. Della serie A volte ritornano, ritorna quest'oggi anche la nostra rubrica, molto sempre più saltuaria, i libri dello Zibaldone, ossia un consiglio letterario che ogni tanto vi facciamo da appunto le frequenze radiofoniche di Radio Contrabbanda all'interno del nostro programma In Italiano Non Solo per Italiani. Banzo, eccolo qui la nostra sigla con la tua bella voce. Un libro, quello di quest'oggi, che ci è piaciuto molto a entrambi. Non è un libro nuovo, ci tengo subito a sottolinearlo, però è un libro che vale la pena andare a leggere se non l'avete ancora fatto. Parliamo dell'Inattesa piega degli eventi di Enrico Brizzi, uscito ormai nel 2008 per i tipi di Baldini Castoldi da Lai Editore. Un libro che apriva una trilogia, un libro che, cosa molto interessante, è una ucronia. Banzo, in poche parole spieghiamo agli ascoltatori magari più disattenti che cos'è un'ucronia? Beh, l'ucronia, diciamo, è uno dei sottogeneri della fantascienza che sostanzialmente si propone di descrivere, questo sì, in modo quanto più realistico possibile, una linea temporale alternativa. Quindi l'esempio più classico è la svastica sul sole di Philip Dick, nella quale i nazisti vincono la seconda guerra mondiale e poi da lì si sviluppa la trama. Ecco, invece qualcosa, c'è qualcosa di simile infatti in questo romanzo di Brizzi, perché non è Hitler ad aver vinto nei giapponesi la seconda guerra mondiale, ma l'Italia fascista. L'Italia fascista che però, beh, questo non lo considererei spoiler, a un certo punto si redime, fra molte virgolette, e comunque sì, ci troviamo in un 1960 alternativo con Mussolini ancora in sella, anche se diciamo ormai agli sgoccioli, questo è sicuramente una delle tematiche del romanzo, e appunto seguiamo le vicende di un giornalista in un mondo che è totalmente diverso dal 1960 che abbiamo conosciuto anche solo attraverso la storia e i racconti dei familiari, cioè il protagonista Lorenzo Pellegrini, un giornalista sportivo, Steven. Sì, un giornalista di stadio che insomma ne combina un po' di tutti i colori e pur essendo giovane ormai avviato a una carriera da giornalista sportivo di grande successo seguendo il calcio italiano ma anche internazionale, viene mandato per punizione nell'Africa italiana. Ecco, adesso poi noi non vi raccontiamo tutta la storia ovviamente, ma c'è da tenere presente che l'Italia vinse la guerra contro poi la Germania di Hitler e quindi insieme agli alleati, e quindi diciamo non solo il fascismo si mantiene nella penisola italiana ma anche in quelle che vengono chiamate repubbliche associate, ossia la Libia, l'Albania, ma anche la Corsica, Malta, l'Egeo e l'Africa orientale, ossia insomma l'Eritrea, la Somalia e l'Etiopia, no? Che rimangono italiane allora. Ecco, e che cosa fa Pellegrini in nella Repubblica Associata dell'Africa Orientale, il cui governatore tra l'altro è anche un vecchio insomma ormai un po' rincoglionito, Roberto Farinacci, ras cremonese. Si trova a dover seguire insomma la parte finale del campionato di calcio dell'Africa Orientale, e qui comincia tutta una storia non solo ambientata appunto in un'ucronia in un paese africano legato all'Italia fascista, con quindi anche una società che sta cambiando, quella della fine degli anni 50 e dell'inizio degli anni 60, ma seguendo anche uno sport, il calcio, quasi un po' importato in quella realtà, con delle squadre che tra l'altro hanno dei nomi in alcuni casi molto fasciste come l'Audax Addis Abeba, e che insomma mettono in luce una realtà molto particolare. Banzo, comunque, Steve, visto che mi hai tirato fuori l'Audax italiano è una squadra cilena. Non so se si sono mai resi conto del pasticcio, però ecco. È veramente un libro affascinante, perché riesce, ma anche chi parla è sicuramente un amante del calcio, quindi diciamo che da quel punto di vista si sfonda la porta aperta, però anche non amando il calcio, Brizzi è bravissimo nel costruire un mondo, quindi proprio trovarsi immersi in una realtà che sembra veramente tangibile, che sembra effettiva, non sembra semplicemente una narrazione. E diciamo che sicuramente la narrazione del campionato italiano dell'Africa orientale, che va detto è una punizione che è stata inflitta a Pellegrini per una storia di corna, ecco, fatta alla persona, causata alla persona sbagliata, ecco, è veramente un esempio di come viene creato questo mondo, di come viene resa tutta una situazione dove tu sottolineavi appunto le squadre fasciste, ecco, che sono quelle ovviamente con più mezzi, con questo spirito coloniale, con il razzismo ovviamente interiorizzato, ecco, delle colonie, e invece in questa costruzione del mondo abbiamo un po' le squadre dei reietti, dove ci sono queste formazioni miste di locali e figli di esuli antagonisti politici di ogni tipo, e quindi questo è sicuramente un l'elemento del riscatto, sia quello dell'italiano non fascista che quello dei popoli nativi africani, che aggiunge moltissimo valore a una contesa sportiva che di per sé è anche povera, perché nel corso del racconto Brizzi sottolinea molte volte che appunto il livello calcistico e di mezzi del campionato dell'Africa orientale è incomparabilmente più basso a quello dell'impero, a quello della Repubblica Italiana, capitale dell'impero, ecco. Eh sì, insomma, vi dico solo alcuni nomi delle squadre, così per farvi venire voglia anche per magari gli amanti delle figurine Panini del tempo che fu. Insomma, l'Abissinia di Redawa è una squadra, l'altra è la Birra Venturi Asmara, poi c'è il San Giorgio Addis Abeba, che è una delle protagoniste, le Fiamme Nere del Djibouti, il Marittimo di Mogadiscio, il Garibaldi di Asmara. Insomma, vabbè, andatevi a cercare questo libro perché merita davvero, soprattutto anche se amate la storia e non solo il calcio, ma anche le ucronie, e ripensare la storia che sarebbe potuto andare magari in un'altra maniera, nel male, ma anche in alcune cose, chissà, nel bene, come viene raccontato in questo romanzo. E chiuderei ricordando, Banzo, che insomma questo è stato il primo romanzo di una trilogia, con poi insomma in realtà Brizzi torna indietro con il romanzo La nostra guerra, che è ambientato nei primi anni 40, quando Pellegrini era un adolescente, e poi tre anni più tardi, nel 2012, invece, presentò un terzo romanzo della serie Lorenzo Pellegrini e le donne, ambientato negli anni 50. Quindi entrambi i due romanzi successivi sono precedenti, cronologicamente parlando, di questa inattesa piega degli eventi. Se mi permetti, sì, consiglio anche la lettura della nostra guerra, che è un romanzo ancora più imponente come impostazione, diciamo. Ma visto che prima hai citato le figurine, voglio chiudere ricordando che la copertina del libro, nella maggior parte delle sue edizioni, o perlomeno anche quella che ho letto io, presentava delle figurine, ovviamente disegnate, di alcuni dei giocatori descritti nel romanzo, fra i quali Kumani dell'Abissinia di Redawa, che è un po' uno degli eroi della storia. Insieme ad Aregai, che è il leader, il capitano in tutti i sensi del San Giorgio Addis Abeba, giocatore ovviamente etiope. Qui la chiudiamo e torniamo tra poco per chiudere questa puntata con un ultimo consiglio musicale, l'ultimo trago. Sì, eccoci qua, gli sgoccioli di questa puntata di Zibaldone. Banjo, c'è giusto il tempo prima di salutarci per annunciare la canzone con cui ci salutiamo in realtà dai nostri ascoltatori e ci diamo appuntamento non alla prossima settimana ma tra due settimane. La prossima settimana vacanza, perché qui è il ponte di San Juan. Vi proponiamo il nuovo singolo di Giovanni Truppi, bravissimo cantautore, una canzone che si titola Alcune considerazioni. Giovanni Truppi lo seguiamo da un po' e vale la pena che lo seguiate anche voi, perché è uno dei cantautori più interessanti della scena italiana di oggi. Che adesso probabilmente il grande pubblico sta arrivando a conoscere anche in seguito alla sua ultima partecipazione sanremese, proprio nel 2022. Eh sì, bravo, bravo, bravo Banzo. Noi Banzo ci ritroviamo tra due settimane, grazie di essere stato con noi anche quest'oggi e buon venerdì sera. Grazie a te Steven, alla prossima puntata. E come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tirano Galvana, alle 19.56 tutti i venerdì diceva che... Volevo fare alcune considerazioni sul brano di Truppi, ma si intitola Alcune considerazioni il brano stesso e poi non abbiamo tempo, quindi ecco a voi alcune considerazioni. Ciao Banzo, grazie mille, ciao a tutti, buon venerdì sera, fate l'amore con il sapore, godetevi questo brano di Giovanni Truppi. Bye bye. E mi rileggo i libri che ho già letto per capire come sono diventato quello che sono diventato. Se qualche cosa me la sono dimenticata, per andare avanti a volte devo tornare indietro, come le cose che si chiamano Pietro. Devo tornare in quel posto segreto dove sono nato, dove tutto è cominciato. E sembra passato più tempo dal 2007 che dal 96. Tu di sicuro penserai che è un problema, ma per me è tutto ok. Mi piace ancora parlare di lei, come sto usando questa vita, tutta questa vita, soltanto per capire chi sono. E hai voglia di cercare le parole giuste, hai voglia di cercare la melodia. A volte basta un niente, anche solo un rumore, non sai mai quando, mai come arriva una poesia. Sto sempre a pensare, ma poi mi sembra sempre che le cose più importanti le decido sempre a caso. E pensa tu che tutti quanti pensiamo, stiamo là tutto quanto il tempo a pensare. Chissà se tutti quanti pensiamo le stesse cose che penso anch'io. Fino a che età scoperemo da vecchi, se i gatti sono in missione segreta e se i gabbiani estingueranno i piccioni per poi passare agli uomini. Qual è il paese del mondo dove è più intelligente andare prima in vacanza? Prima che ci arrivi qualcuno come noi. E hai voglia di cercare le parole giuste, hai voglia di cercare la melodia. A volte basta un niente, anche solo un rumore, non sai mai quando, mai come. Ti eri distratto e vedi solo la scia. E c'è qualcosa che mi manca ogni volta che vengo, che non dipende da me e non dipende da te. E con Riccardo eravamo amici fino a che il rapporto non è sfumato per motivi economici. E c'è qualcosa che mi dice che è meglio se non rispondo al messaggio e mi conservo il ricordo di come eri a lui. E ora capisco di più perché grandi sono così arrabbiati con i ragazzi, tanto che non gli dicono mai com'è che va veramente. Che il trucco c'è ed è non essere in giro quando è l'uscita di scuola. Basta soltanto questo, perché soltanto così puoi pensare che tanto il tempo non passa, che se passa lo stesso. E mentre stai pensando alle parole giuste, e mentre stai cercando la melodia, arriva con un niente, non fa neanche un rumore, non sai mai quando, mai come. Qualcosa viene, ti prende, ti incarta e ti trascina via. E ricordatevi che questo sabato c'è la festa di compleanno di Radio Contrabbanda a Cammasdeu dalle 12 alle 21. Venite numerosi per festeggiare la nostra radio.